Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Udimmo il cannone. Si battevano nelle vicinanze di Meaux. Si diceva che degli Ulani erano stati catturati presso Lagny, a 15 chilometri da noi. Mentre mia zia parlava di un'amica fuggita fin dai primi giorni, dopo aver sotterrato in giardino pentole e scatole di sardine, io chiedevo a mio padre se vi fosse modo di portarci via i vecchi libri. Il perderli vi sarebbe costato più di tutto. Alla fine, nel momento in cui stavamo per scappare, i giornali ci informarono che era inutile. Le mie sorelle andavano adesso a Jeux a portare cestini di pere ai feriti. Avevano scoperto un risarcimento, mediocre, è vero, a tutti i loro bei progetti sfumati. Però quando arrivavano a Jeux, i cestini erano quasi vuoti. Avrei dovuto entrare al liceo Enrico IV, ma mio padre preferì tenermi ancora un anno in campagna. La mia sola distrazione in quel tedioso inverno fu di correre dalla nostra giornalaia per assicurarmi un numero del Mu, giornale che mi piaceva e usciva il sabato. Quel giorno mi alzavo sempre presto, ma giunse la primavera a rallegrare le mie prime bravate. Con la scusa delle collette, quella primavera, sovente passeggiavo di domenica con una giovane alla mia destra. Io reggevo la cassetta dell'elemosina, lei il paniere dei distintivi. Dopo che questo lavoro prestò, alcuni confratelli mi insegnarono ad approfittare di quelle giornate libere. Da allora ci sbrigavamo a racimolare al mattino più soldi possibile. A mezzogiorno consegnavamo la raccolta alla dama patronessa e andavamo tutto il giorno a monellare sulle colline di Chenevière. Per la prima volta mi feci un amico. Mi piaceva elemosinare insieme a sua sorella. Per la prima volta me l'intendevo con un ragazzo precoce quanto me, di cui ammiravo persino la bellezza e la sfacciataggine. Il nostro comune disprezzo per quelli della nostra età ci riavvicinava ancor più. Ci giudicavamo i soli capaci di comprendere le cose e in conclusione gli unici degni delle donne. Ci credevamo uomini. Per fortuna non ci avrebbero separati. René frequentava già il liceo Enrico IV e mi trovai nella sua classe, in terza. Non avrebbe dovuto studiare il greco. Per me fece l'estremo sacrificio di convincere i suoi genitori a lasciarglielo studiare. In tal modo saremmo stati sempre insieme. Siccome aveva saltato il primo anno, sarebbe stato costretto a ripetizioni private. I genitori di René, che l'anno precedente, di fronte alle sue suppliche, gli avevano permesso di non studiare il greco, lo presero con un effetto del mio buon esempio. E se tolleravano gli altri suoi compagni, io ero il solo amico che approvassero. Il giorno dell'apertura delle scuole, René fu per me una guida preziosa. Con lui tutto diventava un piacere e io, che da solo non potevo muovere un passo, amavo fare a piedi due volte al giorno il tragitto che separa l'Enrico IV dalla stazione della Bastiglia, dove si prendeva il treno. Passarono così 3 anni, senz'altra amicizia e senz'altra speranza che le bravate del giovedì, con le ragazzine che i genitori del mio amico ci procuravano ingenuamente, invitando assieme per merenda gli amici del figlio e le amiche della figlia. Piccoli piaceri che rubavamo e che esse ci rubavano sotto un preteso gioco di pegne. Tornando alla stessa situazione, mio padre amava condurci via, i miei fratelli e me, per lunghe passeggiate. Una delle nostre mete preferite era Ormesson. Seguire il Morbrà, fiumiciattolo largo un metro che attraversava dei prati dove crescono fiori che non incontri altrove, il cui nome ho scordato. Ciuffi di crescione o di menta nascondono i piedi di chi si spinge fin dove comincia l'acqua. Il fiume in primavera trascina migliaia di petali bianchi e rosa, sono i biancospini. Una domenica d'aprile del 1917, come ci capitava spesso, prendemmo il treno per la Varenne, da dove ci recavamo a piedi a Ormesson. Mio padre mi disse che alla Varenne avremmo incontrato delle persone simpatiche, i Granger. Li conoscevo per aver visto il nome di loro figlia Marta nel catalogo di una mostra di pittura. Una volta avevo sentito i miei genitori parlare della visita di un signor Granger. Era venuto con una cartella piena di opere della figlia, diciottenne. Marta era malata. Suo padre avrebbe voluto farle una sorpresa, esporre i suoi acquarelli in una mostra di beneficenza di cui mia madre era presidentessa. Gli acquarelli non avevano alcuna pretesa, vi si avvertiva l'allieva diligente del corso di disegno che tirò fuori la lingua e lecca i pennelli. Sulla banchina della stazione di La Varenne i Granger ci aspettavano. Il signore e la signora Granger dovevano avere la medesima età, pressa poco sulla cinquantina, ma la signora Granger sembrava più vecchia di suo marito. La sua ineleganza, la sua statura bassa me la resero sgradita al primo colpo d'occhio. Durante quella passeggiata notai che aggrottava sovente le ciglia, la fronte le si copriva allora di rughe, ci voleva un minuto perché sparissero. Per trovarle ogni motivo d'avversione, senza rimproverarmi d'essere ingiusto, speravo che parlasse in modo abbastanza ordinario. Su questo punto mi deluse. Lui, il padre, aveva l'aria di un brav'uomo, anziano sottufficiale, adorato dai suoi soldati. Ma Marta dov'era? Tremavo all'idea di una passeggiata con la sola compagnia dei suoi genitori. Doveva arrivare col prossimo treno. Fra un quarto d'ora, spiegò la signora Granger, non essendosi sbrigata in tempo, suo fratello arriverà con lei. Quando il treno entrò in stazione, Marta era sul predellino della carrozza. Ma aspetta che il treno si fermi, le gridò sua madre. L'imprudenza mi affascinò. Il suo vestito, il suo cappello, molto semplici, erano la prova della sua poca stima per l'opinione degli estranei. Teneva per mano un ragazzino che dimostrava 11 anni, era suo fratello, un bambino pallido, coi capelli da albino, e la malattia che gli trapelava da ogni gesto. Per strada, Marta e io camminavamo in testa, indietro mio padre, in mezzo ai Granger. I miei fratelli loro sbadigliavano con quei meschini nuovi amichetti a cui era proibito correre. Ai miei complimenti sui suoi acquerelli, Marta rispose modestamente che erano degli studi. Non dava loro alcuna importanza, ma avrebbe mostrato meglio dei fiori stilizzati. Per la prima volta, pensai bene, che quelle specie di fiori li trovavo ridicoli. Da sotto il cappello non poteva vedermi bene. Io l'osservavo. Rassomiglia poco alla sua mamma, le dissi. Era una galanteria. Me lo dicono ogni tanto, ma quando verrà a casa mia le mostrerò delle fotografie della mamma da giovane. Le somiglio molto. Quella risposta mi rattristò e pregai Dio di non vedere mai Marta all'età di sua madre. Volendo disperdere il malessere di quella penosa risposta, senza capire che fosse penosa solo per me, già che fortunatamente Marta vedeva sua madre e non con i miei occhi, le dissi: «Sbaglia a pettinarsi in questo modo, i capelli lisci le starebbero meglio». Mi sentii terrificato, non avevo mai detto una cosa simile a una donna. Pensavo a come ero pettinato io. Potrebbe domandarlo alla mamma, come lei avesse bisogno di giustificarsi. Di solito non mi pettino così male, ma ero già in ritardo e temevo di perdere il secondo treno. Del resto non avevo intenzione di togliermi il cappello. «Che ragazza è mai questa?» pensava, che era cerchio, la provochi sui suoi ricci. Cercai di indovinare i suoi gusti in letteratura. Ero felice che conoscesse Baudelaire e Verlaine, sedotto dal suo modo di amare Baudelaire, che non era tuttavia il mio. Vi ravvisavo una ribellione. I genitori avevano finito per accettare i suoi gusti. Marta se l'era presa con loro, avendolo fatto per affetto. Il fidanzato, nelle sue lettere, le parlava di quello che leggeva, alcuni libri glieli consigliava, altri glieli proibiva. Le aveva proibito Le Fleur du Mal. Spiacevolmente sorpreso di scoprirla fidanzata, godevo di sapere che disobbediva a un soldato abbastanza sciocco per temere Baudelaire. Mi rallegrai di sentire che spesso Marta ne era urtata. Dopo la prima sgradevole sorpresa, mi compiacevo della sua ristrettezza, tanto più che mi sarei spaventato all'idea, qualora lui pure avesse gustato Le Fleur du Mal, che la loro futura camera somigliasse a quella della morte degli amanti. In seguito mi domandai che mai potesse importarmene. Il suo fidanzato l'aveva proibito anche le accademie di disegno. Io, che non ci andavo mai, non mi preferì dicendo che vi lavoravo spesso, ma poi, per paura che la mia bugia venisse scoperta, la pregai di non farne cenno a mio padre. Egli non sapeva, dissi, che io marinassi le lezioni di ginnastica per andare alla Grande Chaumière. Non volevo lei potesse immaginare che io tacevo l'accademia ai miei, perché essi mi proibivano di vedere delle donne nude. Ero felice che fosse nato un segreto tra noi, e io, timido, nei suoi riguardi, mi sentivo già un tiranno. Ero anche fiero di essere preferito alla campagna, poiché non avevamo ancora fatto alcuna allusione allo scenario della nostra passeggiata. Ogni tanto i suoi genitori la chiamavano: «Marta, guarda alla tua destra, come le colline di Chenevière sono belle!» Oppure suo fratello le si avvicinava e le domandava il nome di un fiore appena colto. Concedeva loro un'attenzione distratta, sufficiente a non farli arrabbiare. Ci sedemmo nei prati di Ormesson. Nella mia ingenuità mi spiaceva di essere andato così oltre e di aver tanto precipitato le cose. Dopo una conversazione meno sentimentale, più naturale, pensai, potrei incantare Marta. E ai suoi genitori raccontando la storia di questo paese. Desistetti. Convinto da ragioni profonde, pensai che, dopo tutto ciò che era successo, una conversazione così fuori dalla nostra preoccupazione comune avrebbe solo rotto l'incanto. Credevo fossero successe cose serie. D'altronde era proprio vero, lo seppi in seguito. Perché come me anche Marta aveva falsificato il nostro discorso. Ma io, che non potevo rendermene conto, mi illudevo di averle rivolto parole pregnanti. Credevo di aver dichiarato il mio amore a una persona insensibile. Dimenticavo che i signori Granger avrebbero potuto ascoltare senza il minimo inconveniente tutto ciò che avevo detto a loro figlia. Ma io sarei riuscito a dirglielo in loro presenza? «Marta non mi dà soggezione», mi ripetevo. «Quindi soltanto i suoi genitori e mio padre mi impediscono di chinarmi sul suo collo e di baciarlo». Nel fondo di me stesso un altro ragazzo gioiva di questo tormento festoso. Costui pensava Che fortuna non trovarmi solo con lei, poiché non oserei baciarla di più e non avrei nessuna scusa. In tal modo vara il timido. Riprendemmo il treno alla stazione di Sussy. Essendoci una buona mezz'ora di attesa, ci sedemmo nella terrazza di un caffè. Subii i complimenti della signora Granger. Erano umilianti. Rammentava una sua figlia la mia condizione liceale, con gli esami di maturità fra un anno. Marta volle bere una granatina, ne ordinai una anch'io. Se prima quel mattino stesso avessi bevuto una granatina, mi sarei sentito disonorato. Mio padre non ci capiva un bel niente, mi lasciava sempre prendere degli aperitivi. Tremavo all'idea che scherzasse sul mio buon senso. Lo fece, ma a mezze parole, in modo che Marta non indovinò che io bevevo granatina per evitarla. Giunti a F, salutammo i Granger, promisi a Marta di portarle giovedì seguente la serie del giornale Les Mots e Une saison en enfer. Un altro titolo che piacerebbe al mio fidanzato, rideva. Andiamo, Marta, disse aggrottando le ciglia sua madre, turbata da quella mancanza di sottomissione. Mio padre e i miei fratelli si erano annoiati. Che importa? La felicità è egoista. L'indomani al liceo non sentii il bisogno di raccontare a René, al quale dicevo tutto, la mia domenica. Ma non ero in vena di sopportare che mi canzonassero perché non avevo baciato Marta di nascosto. Qualcos'altro mi stupiva. Oggi trovavo René non tanto diverso dai miei compagni. Provando amore per Marta, ne toglievo a René, ai miei genitori, alle mie sorelle. Mi proponevo con grande sforzo di volontà di non andare a trovarla prima del giorno del nostro appuntamento. Pertanto il martedì sera, non potendo più aspettare, la mia debolezza tirò fuori una buona scusa che mi permise di portarle dopo cena il libro e i giornali. In questa impazienza, mi dicevo, Marta deve dare la prova del mio amore, ma se rifiuterà di vederla, saprò ben costringerla. Per un quarto d'ora corsi come un pazzo fino a casa sua, quindi, temendo di disturbarla durante il pasto, aspettai, tutto sudato, 10 minuti davanti al cancello. Speravo che in quel mentre i palpiti del mio cuore cessassero. Invece aumentavano. Stavo per tornare indietro, ma da qualche minuto da una finestra accanto una donna mi osservava incuriosita, cercando di sapere che mai facessi appoggiato contro quella porta. Fu lei a farmi decidere. Suonai. Entrai in casa. Domandai alla domestica se c'era la signora. Quasi subito la signora Granger apparve nel salottino in cui era stato introdotto. Sussultai, come se la domestica avesse capito che chiedevo della signora per convenienza, mentre volevo vedere la signorina. Arrossendo, pregai la signora Granger di scusarmi per averla disturbata quell'ora, come fosse stata l'una del mattino. Non potendo venire giovedì, portava sua figlia libro e giornali. «Cade a meraviglia», mi disse la signora Granger, «perché Marta non avrebbe potuto riceverla. Il suo fidanzato ha ottenuto una licenza 15 giorni prima di arrivare ieri e Marta cena questa sera con i futuri suoceri». Allora me ne andai e poiché non avrei mai più avuto occasione di rivederla, così credevo, mi sforzai di non pensare più a Marta, pur non facendo che pensare a lei. Eppure, un mese dopo, una mattina, saltando giù dal mio vagone alla stazione della Bastiglia, la vidi scendere da un altro. Stava andando per negozi, a scegliere svariate cose in previsione del suo matrimonio. Le chiesi di accompagnarmi fino all'Enrico IV. «Tò», disse, «l'anno prossimo, quando lei sarà in seconda, avrà mio suocero come professore di geografia». Seccato che mi parlasse di studi, come se qualsiasi altro argomento fosse inadatto alla mia età, le risposi aspramente che sarebbe stato molto strano. Ella aggrottò le ciglia. Pensai a sua madre. Arrivammo all'Enrico IV e, non volendo lasciarla con queste parole che credevo offensive, decisi di entrare in classe un'ora più tardi, dopo la lezione di disegno. Ero felice che in quella circostanza Marta non ostentasse buon senso, non mi mosse alcun rimprovero, piuttosto pareva ringraziarmi di un simile sacrificio, in realtà inesistente. Le fui riconoscente che in cambio non mi avesse proposto di accompagnarla alle sue lezioni, invece mi regalò il suo tempo, come io le regalavo il mio.